Oh, come cantano, con voci e concetti propri, per farsi credere affettuosissime contro quelli che non amano. La mansuetudine, le parole inzuccherate, i titoli di disonestissime voci sono il sale che condisce la loro simulazione, sì che, parlando di gente tale, il segretario di Dio disse «Verba eius iniquitas et dolus». Da bocche così sacrileghe non sodono appunto altro che inganni occulti e ti inventare astutamente ciance contro le sorelle con lingua peggio che di Momo, poiché quello biasimava e lacerava tutti in presenza, ma queste che meriterebbero d'aver così bipartita la lingua come hanno finte le parole, portano il miele sopra le labbra e il tosco in seno. Quando sofferisce loro occasione di insidiare ad un'amica, pur allora trattano da nemiche, perché ogni simile occorre talora che due fanciulle, simili nella fortuna e non dissimili nell'essere, ambi due state gabbate dai parenti, coetanee, concordi di volere e di pensieri, che avranno in un medemo tempo fatta la funzione di vestir abito religioso, si piglian vicendevole affetto, e a vicenda l'una dell'altra si confida, scoprendosi i più interni voleri e comunicandosi i più segreti pensieri, onde sono appunto sorelle in amore e di continuo compartono fra loro le cure, dandosi con ogni sicurezza le chiavi del cuore in mano. E se Salomon disse «Beatus vir qui invenit amicum verum», queste infelice vanno in questa guisa, sollevandosi da tante gravi tribulazioni che patono nell'inferno monacale, e non rimanendo loro altro conforto, tengono simil metodo per mitigare la fierezza dei loro dolori. Queste non si ingeriscono nei fatti altrui, non si risentono dei biasmi e di invenzioni macchinate lor contro, non ambiscono vana lode, ma vivono ingenuamente, non entrando nei conventicoli delle mormoratrici. Ma eccoti che a turbar la quiete di questa coppia entrano altre, simili d'abito, non di costumi. E sotto finzioni d'amicizia adoperano ogni arte possibile per disunir quegli animi così caramente legati. Queste, tutte per invidia livide, per curiosità ansiose, per fraude ingannevoli, anziché fraudolenti, paiono appunto la stessa fraude con faccia umana, poiché sotto abito di mansuetudine e benignità portano ascoso il coltello della malizia. Così descrisse questa ingannevole chimera il gentilissimo poeta ferrarese, dicendo che ella aveva un umil volger d'occhi, un andar grave, un parlarsi benigno e sì modesto, che pareva Gabriel che dicesse ave. Era brutta e difforme in tutto il resto, ma nascondea le sue fattezze prave con lungabito e largo, e sotto quello attossicato avea sempre il coltello. Tali sono queste che, copiose di invenzioni, alle semplici che le stimano sincere e l'amano al par di se stesse, vanno, con intrecciamenti di discorsi e con supposizioni false, addossando le proprie colpe altrui, con stuzzicar la bontà loro in odio contro le maladicenti, perché ciò che vedono e sanno per la confidenza, il riferiscono come rapportato da qualche altra e tasseriscono con giuramento d'aver udito di proprio orecchio da bocca d'altre ciò di che elle sole sono state fatte confidentemente consapevoli dall'ingenuità di queste pure colombe, che senza pensar più oltre il tutto credono. Onde le scellerate tirano la rete dei loro tradimenti in tal modo per poter a suo tempo far che dentro vi inciampino quelle povere scioccarelle che piuttosto che supponere inganni nell'iniqua tristizia di queste si persuadono che in monastero vi siano delle spiritate che possino penetrare gli altrui pensieri ed elle scaltramente fingano di lodarle, ma con tale lode che a faccia di lode ed è biasimo a chi bene il comprende, sicché a loro s'aggiustano benissimo quei versi del Tasso, gran fabbro di calunnie adorne i mondi in modi novi che sono accuse e paion lodi. Ma passiamo dal noviziato alla professione, che poi anche non è per mancarci occasione di tornare alla malvagità di queste sfingi diaboliche, così divenute per la tirannia dei genitori. Spirato il tempo dell'approbazione, si comincia il funesto trattato d'ordir un nodo così tenace e forte che non possa essere disciolto da forza umana. Dico la professione che è un legame indissolubile, anzi un sepolcro della libertà di quelle che dentro vi inciampano. Sino a questo termine si può dire che la novizia abbia vissuto fra delizie e contenti, si è ben dolsuta sino a ora della sua prigionia, ma non per anche si è accorta dell'imminente ruina che dal suo inganno orditale le sovrasta. Era troppo tenera d'età per penetrare l'astuzie. Colui che dal sentenzioso tasso fu indotto a dire: «E benché fossi guardian degli orti, vidi e conobbi pur l'iniquie corti». Era vecchio, e il tempo e la pratica son quelle che rendono sagaci le più pure menti. Giunte vicino a questo estremo punto, che l'ultima sentenza irrevocabile dell'eternità del suo carcere, padri, fratelli e altri congiunti fingano, con frequenze di visite e con liberalità di doni, d'amarle svisceratamente e con piacevolezza impareggiabile, fanno fra loro questa azione a ciò, con una quietazione stringata fatta per mano di Nodaro, rinunzino né più pretendini nulla di casa, promettendole intanto un legato di gran rilievo con altre gentilezze che mai vi giungono, ma che, sigillata che è in monastero, e sigillata con sacramenti e promesse che van congiunte alla professione, cessan le visite, né più si vedono presenti che gli avanzi di quella mensa al sposalizio della sorella che, sin dalla servitù rigettati, gli vengan presentati anche il di seguente. Onde, in tante figlie d'avarissimi uomini che appunto per l'avarizia han tradito il loro sangue, non è meraviglia che molti imitino il genio del genitore. A questo proposito, mi richiamano i contrasti che occorrono tra padri e monache per le necessarie spese di nuovo banchetto, della messa solenne, dell'apparato della chiesa, del vestir annuale e t'altre circostanze che tormentano la borsa al tenacissimo vecchio. La sorella di questa misera, che fu congiunta in matrimonio mondano, dopo aver dalle monache ricevuto un presente sopra il quale avrà l'infelice giorno e notte lavorato con assiduità ed impiegate l'amiche tutte, termina il festoso suo noviziato con illustrissimo sposalizio, annesso a tanti dispendi che trapassan tutto il valore della dote della monacata, la qual, forse, resta con debiti e ti miseria per regalar quella novizia che la deride. Esce quella a farsi vedere a tutto il mondo in abito bianco guarnito d'oro, accresciuta alla natia chioma posticcia capigliatura, tutta tempestata di gioie e carica di ricchissimi adornamenti che tutto le coprono il corpo. Questa, rivolta a quell'usigolo di cuoio che come schiava deve tener legata, mestissimamente cantando proferisce «Recingat dominis lumbis corporeis mei», con ciò che segue. Quella, quasi lasciva Venere o dea delle ricchezze, pomposamente abbellita, non cede la sontuosità dei pasti di queste nozze mondane a quelle di Commodo imperatore o di Caligula, che dispensò la maggior parte di tesori in crapule. Vi mancan solo i nettari e l'ambrosi di Giove, essendovi senza numero i Ganimedi. Poveri insensati! Non si piange di queste spese, ma tutto ciò che per uso di questa meschina s'adopra è superfluo. Risolvetevi almeno, se ben contro vostra voglia, o avarissimi, di levar di scrigno quel poco danaro che ha da servire ai funerali di questa meschina. E se tanti ne profondete nelle musiche, suoni, balli e lascivie che accompagna la maritata, e non per altro che per nutrir la vostra ambizione appresso genti del mondo, da voi se ne sborsi poca quantità per sepilir l'inferno dei viventi la sfortunata, che pur da voi è stata generata della medesima materia di colei per cui scialacquate tanti tesori. Arriva il destinato giorno all'oscura cerimonia che non appar nelle tenebre. Ogni cosa all'infelice somministra materia di pianto. Vedesi costretta ad avvezzar l'animo al nome di serva, essendo tal or di illustrissimo, serenissimo sangue, e il forza a soggettarsi all'obbedienza. Ciò cagiona in essa il consumarsi in lacrime che poscia fra le mestizie dell'animo s'asciugano all'ardente fuoco dei sospiri. Oh, crudo orrore! Ognuna delle destinate a questa funzione alla presenza del sacerdote, dei parenti e spettatori di sì funesto spettacolo è necessitata a chiamar per testimonio di sue forzate e non volontarie promesse iddio e tutti i santi, le cui reliquie in quel tempio o monastero si trovano. vestita a bruno e taluna anche di scotto bianco, rosa o griso, perché disperate se leggono le più strette regole e conforme gli ordini di sua religione, comincia con tristo augurio sopra consacrata pietra dar fuori queste, non proferite dal cuore, ma sol dalla bocca mestissime voci. Ego soror Christi, promitto stabilitatem meam. Aggiunge altre parole di gran ponderazione che tutte tendono ad attestare e obbligarla a gran cose. Per sigillo poscia del giuramento, segna una croce su bianca cartella, qual rimane in perpetuo per eterna memoria di sue indissolubili promesse. Qui, oltre alla mia debil penna, ci vorrebbero tutte di cattolici e profani scrittori, quelle dei moderne ed antichi, dei fedeli ed eretici, per descrivere appieno la pazzia solennissima degli uomini. Sarian bisognosi gli insensati di un nuovo astolfo che andasse a cercare il loro senno sulla luna, ma però non erano a caso, anzi maliziosamente, l'ingegno smarrito. In ogni loro scritto predicano l'incostanza e poca fermezza femminile, sia o negli amori o in qualsiasi altro affare, e sprezzandole appiccano loro come suo vero attributo, se ben mentito, l'instabilità. Portano in comprobazione della loro falsità ciò che da qualchedun di loro a ragion maltrattato sarà stato detto. Così Tibillo, meritatamente, da una donna burlato, dicea, omnia per solui fruitor nunc alter amore. Anche l'Ariosto, detestando questa mutabilità, induce Rodomonte a lamentarsene e prudentemente il fa mentre pone in bocca ad un saracino bestialissimo, senza ragione, senza legge e sempre nemico alla verità, tali parole. O femminile ingegno, gli dicea, come ti volgi e muti facilmente. Ovidio, anch'egli forse appassionato della sua Corinna, cantò: non sì ch'incerto mutante flamine, sirtes, nec foglia iberno tanto tremefacta noto, quam cito femminea non constat fedus in ira, sive, et ea gravis sive et causa levis. Properzio, anch'egli per non dissentir d'altrui falsità, diceva: nulla diu femina pondus habet. Altri malignamente dissero che le donne sono simili alla fortuna, volendo dinotar nell'instabilità di questa dea la loro incostanza. Così il suddetto inviperito e sprezzato Rodomonte soggiunge: ne so trovar cagione ai casi miei, se non quest'una, che fortuna sei. Ma se questi tali penetrassero a fondo, conoscerebbero tale applicazione non risultar in danno e biasmo delle femmine, rispetto che, sebbene la fortuna è volubile, niente di meno produce, e ted ogni ben motrice, dove che essi medemi vengano ad inferire e confessar che da una rotta, posta in man di donna, dipende ogni loro felicità. Oltre che, da questa ruota derivando ogni cosa, conseguirà per necessità che il loro siano influiti in costantissimi pensieri. Io però non approvo queste enormi proposizioni, ma con Sant'Agostino dico la fortuna non essere altro che una segreta volontà di Dio, e tal'altro non è mio fine che far intendere la sciocchezza degli uomini che è eccessiva. Mentre vogliono attribuire alle femmine, non men con la voce che con la penna, i loro propri vizi che in se stessi, tutto, dicono opere palesi, a tutto il mondo operano. Non mancano però scrittori veridici e disappassionati che hanno lasciato autentiche testimonianze della virile instabilità in amore. Il divinissimo Petrarca, nei suoi trionfi, parlando in favor di Tamar contro di lei fratello Amone, or innamorato, or ad essa nemico, lasciò scritto: vedi quel che in punto ama e disama. In ogni maniera, o perfidi, vi dichiarate maligni perché scientemente nei vostri scritti spiegate il falso e con le operazioni volete opporvi a quel genio che dite esser comunemente inserito in tutte le donne. Si può sentir pazzia più esorbitante. Dite mille volte, però mentite, che fra il numero tutto del sesso donnesco pur soluna non se ne trova di matura fermezza, e poi arrogantemente tentate superar lor natura col pretender del stabilire in perpetuo obbligati i loro volubili desideri. Perché dunque volete con un impronto di croce sigillino, una scrittura fatta conforme alle vostre, non alle loro voglie? E se sono instabili nei propri pensieri, strano le costanti in quelle determinazioni fatte per aderire alla vostra tirannica volontà? E perché legarle con violenza alla molteplicità di tante leggi e nella quantità di tanti ordini abbacinate e confuse che restano, perplesse ed iniqui? Oh, quanto meglio sarebbe il persuaderle alla santità e religione con gli esempi che con le parole e con la forza. Ma bisogna che le sfortunate, perdendo la luce di questo mondo, entrino nel miserabile numero di coloro di cui fu detto super ceci di tignis et non viderunt solem, rimangano appunto da inimitabil crudeltà sin prive dei raggi solari. Oh, infelicità! Senza comparazione, restar prive di luce. Quanto compassionevolmente doleasene quel povero vecchio del cieco Tobia, quare mihi gaudium erit, quia in tenebris sedeo et lumen celi non video, quasi dir volesse che cosa di peggio poteva mandarmi Dio. Così queste, tradite, sedendo nell'oscuro carcere, chiamano di continuo vendetta contro chi l'imprigionò, vindica sanguinem meum. Già che vedi, dicono elle, o monache dei cieli, con occhio perspicacissimo, le ingiustizie fatte contro di noi, con l'aver negli uomini celebrate le ossequie e consegnati i nostri cadaveri spiranti ad un sepolcro. Questa, o Signore, non è opera del vostro santo volere, poiché non voi ne chiamaste, ma forza tiranna degli interessi altrui cui ci rinchiuse. Concedete nel vostro aiuto. Ni una di loro nel fare il strettissimo passaggio della professione suppone, non concorrendo con la propria volontà e telezione a quegli obblighi, non essere stretta ad osservanza alcuna, e così al tutto si sottopone per non poter far altro. Ma torniamo alle funebri cerimonie che in poco o nulla differiscono dai funerali che ai defunti si celebrano, alle secrete della messa gittata boccone a terra. Vien coperta di negro drappo, postale a piedi una candela e tuna al capo, sopra sé le canta le litanie, tutti segni che la dinotano estinta. Ella stessa sente i suoi propri funerali e sotto quella bara li accompagna con lacrime e singulti, sacrificando tutti i sensi alla passione e al dolore. Ma perché il racchiuso fuoco, e che non può svaporare, opera con maggior forza, i di lei desideri che stanno oppressi sotto verecondia maggiormente l'affliggono. Misera, addolorata, sa che non può terminare il corso ai suoi infortuni, poiché sono irrimediabili i suoi mali. Vede l'impossibilità del rimedio e conosce che i suoi lamenti non son per impietosire i rigori del cielo. Va perciò con aspra risoluzione ingannando i sentimenti del dolore e così, con labbra da disperazione fioche, si induce a properire la sentenza della propria sepoltura. La superiora le dà, poscia, tre ponti ad un velo di camorada, che chiamasi sorazzetto e serve per coprirle il capo. Vien con ciò significato che i 3 seguenti giorni ella è tenuta ad osservare un silenzio così rigoroso che neppur le è concesso chiederle appartenenti al necessario vivere. Perché il deplorar le miserie sue con lamenti e conferir le sue calamità, dependendo i suoi segreti pensieri, riesce di gran consolazione agli afflitti a perfezionare le miserie di queste mal arrivate, s'aggiunge il condimento che elle non possono sfogare le loro pene. Torna quivi a ricevere dalle sorelle religiose la sconsolata, non più novizia ma monaca, nuovi segni di pace con inviti di guerra. Dato il fine a queste esterne cerimonie, ella è introdotta al banchetto assai più del primo semplice e penurioso, nel quale alle volte sogliono i padri e i parenti più generosi distribuire a ciascheduna delle monache uno scudo, come anche è costume di farsi da tutte alla solennità del vestire. Così, quasi mute, osservando un puntualissimo silenzio, dormono le 3 seguenti notti vestite, e in che sorte d'abiti? Non così avviene a quelle che dai padri destinate a mondane nozze godon nella notte primiera così deliziosi riposi che la gitta quiete è il minor dei comodi e contenti che provano. Oh, quanto son corrotti i secoli moderni! Fu già nei tempi remoti chi stimò crudel Porzio Catone perché, ridotti che fossero alla vecchiezza i suoi servi, o scacciavali o come schiavi vendevali. Ed oggi non solo non son biasimati, anzi si lodano con buoni politici, coloro che, non i loro servi d'età decrepita, ma le proprie figlie, nella più fiorita e tenera età, scacciano dalle case. Bandite da tutto il mondo e più ristrette e mal condotte che non gli stessi schiavi, anzi, con lor tirannide le sferzano ad essere serve del diavolo e ad avvelenarsi da se stesse, come nei tempi presenti ad una è successo. Altre, non di meno prudentissime, non si danno in preda alla disperazione perché conoscono esser pazzia l'affliggersi di quei mali che sono senza rimedio, onde, con lo scudo della sofferenza, va taluna ad esse riparando i colpi del tentator demonio, che insinuando loro ragioni potenti, procura d'indurle a disperarsi. Così, necessità fatta virtù, cominciano pazientemente a tollerare l'asprissimo giogo e stabiliscono di valersi di ricordi, dati già loro da colui che le suggerì il viver licenzioso. E taluno, che ha la zia di buona coscienza che gli predica il viver religioso, ad ogni modo non la stima, anzi la sprezza, poiché non si tengono elle obbligate a cosa alcuna e si vaglian di quel detto, ogni vergogna morza il poter dir che le sia fatta forza. Considerate voi qui un poco, o ministri di Satanasso, che sforzando le vostre figliuole ad entrare nei monasteri, siete partecipi di tutte le loro azioni scandalose. Qual riparo siate per impetrare nell'eterno e spaventevol giorno del giudizio, quando la sonora tromba si farà con orrido rimbombo sentire all'universo? Rammenterei qui tutte le vostre crudeltà e tirannie, ma purtroppo son note al paradiso e non ignote agli uomini spietatissimi e senza compassione alle povere sfortunate, che pur dovria essere abbondantissima e senza fine per non averle preso l'abito religioso d'elezion propria. Che delle volontarie sante non mai intendo parlar se non con profonda riverenza. Da qui nasce, che non impropria parmi la similitudine che io immagino delle propalate religioni col popolo già favorito dal lettor del mondo, con tanti eccessi quanti nel Vecchio Testamento appariscano, sino che gli ebrei furono obbedienti al loro capitano Mosè, i più sublimi favori della divina mano piovero, anzi diluviarono sopra di loro. Non si trovò, per così dire, beneficio che non fosse il loro impiegato. Le grazie erano illimitate. Ma se queste fur da loro senza fine, senza numero ricevute, così fu anche eccessiva l'ingratitudine dei loro perfidi cori contro il sommo benefattore. Popolo eletto ed amato, a me pare, anziché quasi idolatro da Dio, furono nei tempi andati i religiosi. Qua i miracolosi portenti non si videro di grazie divine in loro, sinché sotto la condotta di Benedetto, Agostino, Basilio, Antonio, Domenico, Chiara, Caterina, Tiresia e di due mostri di santità, Francesco di Paola e Francesco d'Assisi ed altri, combatterono contro il demonio, mondo e carne. Qua i vittori non ottennero mentre pugnarono sotto gli stendardi di sì gran campioni. Però non sia chi qui rimproveri che la comparazione di questi santi sia poco proporzionata al duce degli ebrei, Moisè, che s'egli dalla principessa Termut fu levato dall'acqua mentre in una cesta di giunchi spinosi andava fortunosamente ondeggiando. Molti di questi eroi di paradiso, col favor della sovrana principessa dei cieli, fur tolti dall'acqua fetide di questo mondo, mentre stavano pericolosamente vacillando fra gli inganni del diavolo. Con la guida di sì valoroso campione, come era Mosè, gli ebrei a piedi asciutti varcarono il mare senza pur bagnarsi l'estremità dei piedi. Placido e Mauro, discepoli di quel granduce e religiosi di cui la Chiesa cantò Pater et Dux benedicite, per obbedirgli passarono intatti l'acque. S'a quelli pioveva il vitto dal cielo, a questi dall'aria un corvo imbandiva quotidianamente la povera mensa. Oh, quante volte hanno questi capitani della milizia di Dio, come già il legislatore ebreo, raddolcite l'acque amare in dolci, con l'esperimentare in se stessi ed in altri quanto sia soave e dolce il patir amaritudini di travagli e patimenti per l'Onnipotente. Più volte, col segno della Santa Croce, tu un sol pane fra deserti di religione, han reficiati gli interi monasteri. Il glorioso Francesco di Paola con un sol fico saziò 300 persone. Sono innumerabili le grazie e i privilegi ottenuti dalla soldatesca religiosa sotto la scorta di questi santi capitani che mai combattono con le schiere dei nemici dell'uman genere, senza riportarne gloriose vittorie ed immortali trofei. Fu già chi, avendo gran tempo combattuto, fu consigliato da amici a ritirarsi a quegli agi ai quali il richiamava la vecchiezza, ma loro, sovrappreso da generoso sdegno, così rispondeva: «Io voglio militare, che ad un soldato di Cesare non lice riposo sino alla morte».